nulla, quello che è, glielo pago, non me ne frega niente. Mi serve solo la custodia, non mi serve il circuito. Il circuito ce l'ho io. Era il circuito che avevo pensato bene, ti dico in quella palla che ho omologato, famosa, avevo comprato all'epoca del Covid, mi avevano a fregare già, stavano secchi. No, aspetta Antonello, non ho capito, ti serve la parte di dietro, non il circuito di quale apparato? No, non mi serve il circuito dell'apparecchio, mi serve solamente la parte frontale del boxer, hai capito? Del microfono, tutto il resto ce l'ho è a posto, solo la parte di davanti, hai capito? La plastica dove è lanciato il pulsante del... hai capito? Tutto il resto è a posto, siccome l'avevo in pratica dato a un amico, lui ce l'ha messo dentro la macchina e si è seduto sopra qualcosa e ha spaccato la parte di davanti, hai capito? Si è seduto e non sono d'accordo. No, già avevo capito, cioè ti volevo dire, tu non volevi il circuito, già ho capito il guscio, però già Antone non ce l'ho più io quel Proxel. Antone, forse ce l'ho io, devo controllare, però se ce l'ho in una scatola, devo vistare e vedere se c'è. Vabbè, controlla, se c'è, a me mi sta bene, il circuito lo puoi tenere, tranquillo, intanto ce l'ho, è tutto intero, compreso i contatti, eccetera, eccetera. L'unica cosa mi serve l'aggancio, dove c'è la levetta del microfono, la portante, e poi il coso, è quello che ha spaccato lui, capito? Tutto lì. E dove c'è la capsula? Solo quello. Se lo trovo te lo regalo, c'è problema. Ok, va bene, ti ringrazio. Che cazzo sta fischiando sta cosa? Okay. Adesso va bene. Va bene, ok, quando... va bene, se mi regalo non c'è problema. Ci vedo una cosa a posto, non c'è problema, ti ringrazio. Hola. Cazzo, ma c'è pure di tutto, cazzo, dieve mille, 1.300.000, eccetera, eccetera, cazzo. Quando ho affittato il garage, cazzo, ci ho buttato tutto, e ho fatto veramente male, gira, qua. Fa ancora a me, a volte, si fanno le cose, vabbè, quello mi dice butta via tutto e lascia il garage libero, ho dovuto fare così, purtroppo devi piangere per una cosa, per la passione, ma pensavo di poter tanto tempo di poter parlare un coso mio, cioè un microfono mio, di cosa è quello, un M1000. L'unica cosa che mi è rimasto è il nuovo, c'è un microfono del forma originale, se qualcuno serve, quel forma famoso che mi ha vinculato a me, questo è il corso, cazzo di faceva schifo, faceva quando usciva, per carità. Mi hanno messo la colonnina, vabbè c'è anche la colonnina originale sua, e chi lo vuole, se è puntale, infatti caccia, eccetera, eccetera. Comunque va bene l'MB40, perché lo dovreste sapere, di quel forma famoso omologato quando c'era il Covid, che era 55 euro, poi me l'ha fatto pagare 77, la verità. Avrei saputo, non l'avrei manco preso. Ma sto scendendo, aspetta, prova. Sì, ho letto, ma lo ZX40. Sto scendendo. Eia, Marco, aspetta che mi hai chiamato Carlo, sto scendendo. Eia. Marco, forte e chiaro qua, Serra Secca. vediamo, è che non ha smitter qua, sale poco. Gianni, ci sei ancora? Marco, ci sono Marco, scusa. Ho sentito Carlo che chiamava, sei da Pompo? No, sono qua a casa. No, qua da Antonello, sotto casa sua. Ciao Carlo. Gianni, come mai ci sento qua? Ti sentivo meglio. C'è qualcuno che sta fischiando a fianco, che gusti. Ehi Gianni, com'è cambiata la modulazione rispetto a prima? Stesso mic ma su quell'apparato senza smitter. Aspetta, si sente bene. È bella presente, va. Ma più che con il 3009? No, il 3009 mi piace di più, però questa qui è bella presente, bella forte. Più o meno lo stesso, non è che cambi molto. Eia, e l'unica cosa è che qua il trimmer della modulazione era tutto aperto. Qua era tutto aperto, capito? Questo potrei lasciarlo nel cofano, dentro un astuccio, guarda che non prenda polvere. Una busta, cosa ne gioco? Con un'antenna andante, una base magnetica andante. Però l'antenna non deve essere troppo corta, se no è inutile. Questo che apparecchio è? Come? Che apparecchio è questo? Intec M150 Plus, 40 canali AM/FM multistandard e altoparlante frontale, però senza smitter. Ma vecchia data, eh? Sì, diciamo anni 2000-2010. Più o meno, 2010 quando sono entrato io era in vendita, sì, quando sono entrato io era in vendita. Perché era Intec, mi sa che non le sta più facendo, non ne ho più visto Intec io. No, l'Intec ha chiuso i battenti proprio, non esiste più. Ah ecco, tanto un bacio a me. Ehi, sai cos'è già? Rispetto alla Midland che ti fa una sfilza di modelli, non era più competitiva la Intec per le radio. PMR lo stesso aveva due PMR quando la Midland ti mette G6, G7, G9, G11, tutta quella serie di fino ai professionali quasi, più senza contare quelli semigiocattolo. E quindi la Intec non ce l'ha fatta più. Peccato, guarda online ogni tanto trovi qualche catalogo vecchio, chi se lo vuole scaricare e conservare. Vabbè. Ma io le ho avuti l'Intec, che ho avuto l'FM500S, l'Intec, quello piccolo, adesso non mi ricordo come, quello 350 mi pare. Quello lì lo stesso, ho avuto il 550, vanno molto bene l'Intec. Ehi oddio, vabbè, certi un po' così, dai. Vediamo se funziona il beep della radio, piccolino. Non dimmi che ho avuto io, andavano tutti bene. Ma ancora con questo, mamma, aspetta che lo escludo dalla scansione. Ah lì, se no sempre su l'endi, piribiribi. Che cosa ci prendi a ascoltare il 52? Lo conosci? No, no già, ma il problema è cosa che sta facendo la scansione delle memorie di continuo. Ogni tanto quello apre il ponte, attacca e si ferma lì. Attacca il CV doppio e si ferma lì lo scanner, non io. Ah, non è che tu ascolti CV doppio. Oh, ci vuole un orecchio, è una mente un po' sgombra. Vabbè, uno può essere anche idoneo ad ascoltarlo, magari uno è imparato, è un casino. Ma io questo sistema di trasmissione a me non mi entusiasma molto, io entro l'apparato per parlare, per fare quattro chiacchiere. Eia. Vediamo se Carlo è in compagnia di Antonello, se possono parlare. Carlo? Vabbè, stanno parlando. Mi chiedevo già, se questo lo lasci nel cofano, come arriva il caldo estivo? Non è che si crepano le plastiche? Che non so se sia salutare lasciare una radio nel cofano. Capito? Pure che ne risenta troppo del caldo. No, basta che mi vedo attorno allo straccio. Quando quello devi usare lo svolgi dallo straccio e lo prendi. Ah, ok. Vedi, qua la staffa è fatta apposta per quella ventosa lì. Passi la vita, metti un bullone dietro per bloccarla. Un giorno scendo e la provo a piazzarla a vedere come va. Lo metti in un minuto, lo togli in un minuto, senza mettere quelle dritti come facevo io, no? Che è un po' un macello certe volte. No, io la stappa fissa, quando la devo mettere, la metto nella stappa e via. Ho tutto quanto, il capo che passa dietro, tutto fatto bene. Io l'ho fatto da un tecnico, no? Era una macchina nuova, non mi fidavo a toccare, ma... Sì, ma infatti hai fatto bene. Hai fatto bene. E non c'è nessun altro qua, no, non è entrato nessun altro. Pomponio, vabbè, è sceso giù. Emanuele non ha risposto. Chi altro c'è? Io e tutte le rose. Poi sì, ho sentito qualcuno stava accordando al 9, fischiando, forse accordando, non so. Sembrava quasi tra un canale e l'altro. L'ho sentito anche io, ma quando mai uno va a fare le prove al canale a fianco, quando ci sono 40 canali? No, appunto, magari stava accordando per questo canale e giustamente ti metti sul canale a fianco, no, però non parlare sopra, per non sovraondulare, per stare a re... Già hai capito, per accordare. Io ho capito. No. E quindi Marco si è già rintanato. Rintanato, ho capito bene. Rintanato a casa. Eia. No, perché volevamo andare in campagna, però alla fine mia zia andava tardi, andava alle 7 solo per dare da mangiare i gatti, là, ho detto non ci conviene fare la deviazione da Platamona a Zola Bancari. Allora siamo tornati. Non abita in campagna. Come? Tua zia non abita lì. No, no, no, è una seconda casa quella che ha, no, una terza o quarta, ho perso il conto di quante case ha. Diventerà ricco, ma... Bisogna trattarla bene. E poi non è l'unico nipote. Eh no, un cavolo, un cavolo. Adesso ci sono i nipoti, i pronipoti. C'è l'altro... Vabbè, uno purtroppo ha una grave malattia, invalidante. C'è l'altro che lavora in Inghilterra. No, scusa, non Inghilterra, quella a fianco, quella di... Quel paese di morti di fame, come si chiama? Aiuto, non mi viene. Irlanda, Irlanda, no, altro che morti, stanno meglio di noi forse. E poi i nipotini, cioè, i figli suoi, quelli altri nipotini piccoli, capito? So che sono così lontani che giusto si fanno gli auguri a distanza e boh. Ehi, sta tranquillo che se c'è da ritirare qualcosa gli avvengo. Sì, quando ci sarà da ritirare è come se vorranno. È ovvio, beh, è normale, no? Hanno diritto anche loro. Cappa. Vabbè. Dai, c'è un avvenire. C'è un avvenire. Ma cosa avvenire? Non esiste avvenire. Tanto mi adesso scoppia la guerra mondiale o dalla parte degli arabi e ebrei o dalla parte dei russi e qua finisce a schifio. A proposito, hanno fatto questo filmone, era il moderno, però alla fine non trovi un cane che se lo voglia guardare. Si chiama, guerra civile, civil war, praticamente ipotizza una guerra civile all'interno degli Stati Uniti, no? Come se fosse una specie di secessione. E lo stanno lodando un po' tutti quel film, mi piacerebbe vederlo, però se non vado al cinema devo aspettare adesso quant'è, un anno o più, che lo facciano in DVD oppure in streaming o roba del genere, capito? Su Netflix se lo trovi. Non so se sia però roba di Netflix, comunque sì, in streaming prima o poi lo daranno, su qualche piattaforma a pagamento, deve essere interessante. È un po' crudo, là. A me l'ha piaciuto La vita è bella, quanto era bello quel film. Sì, anche perché La vita è bella con Benigni, quello dove praticamente lui faceva capire al bambino che era quasi una colonia, un parco divertimenti, già capito, una colonia, cioè non gli ha fatto capire che era un campo di sterminio, ecco. Sì, lo faceva vedere come un gioco, tutto, capito? Poverino. aspetta, li porta con la telefonia, ci ribruciavano. Brutti tempi. Ecco, quel film io non sono riuscito a guardarlo tutto ancora, lo devo vedere, perché se lo guardo lo devo vedere bene dall'inizio alla fine, senza perdermi nulla, capito? E già me lo guarderò prima o poi. Che avanti. No, ho sentito un fischio, credevo aveste parlato in due, boh. Che? Ho messo le radio accese per scaldare, poi ho messo l'altro canale, c'erano su 10. Vabbè, tanto male. Ciao Anto, ben entrato. Allora, oh, io non c'ero questi giorni, stavo lavorando. Bravo tu, interessante lavorare, dammi una ti appu chiusa di notizie. Un attimino, mi sento un secondo solo. K, spermi sulla stazionaria. Aia, aia, no, no. Ok, ora va bene. K. Ehi, sei tornato da poco a casa tu? Io avevo fatto un giro da Platamona, giusto per mamma mia. Farla uscire, abbiamo visto gente, si stava benissimo, non c'era né freddo né caldo. Ci siamo pigliati un bel gelato a tavolino. E così la serata è fatta, dai. Era dormito in giro, mamma mia. Era addormentato, vero, tutta la sera, perché ero crepato da ieri. C'era anche Pomponio, però poi è sceso che l'hanno chiamato. C'è sceso Pomponio, in poche parole. Cappa, com'è di cereale, buono di cereale. Sto utilizzando l'87, sto utilizzando. E non ho Smitter qua, sto usando l'unico baracchino senza Smitter. È perfetto, non devi dare controlli. La radio è buona, stende tendente un po' al cupo sempre. Vabbè. Cioè, ma cupo inteso toni bassi, dai, sa prevalentemente toni bassi. Certo, però già anda, dai. Io purtroppo ero addormentato fino a poco fa, perché stamattina ho lavorato lo stesso. E via. E poi questo apparato ha l'altoparlante frontale, però essendo piccolo l'altoparlantino è un po' tizzissimi come ricezione, non è un granché, però è semplice, è di una semplicità estrema. Volume, squelch, boh, vabbè, c'è tastini MFM, Roger Beep, tasse emergenza, le solite menate, il noise blanker. Buono, così non ti assidi dando segnali. Ehi, come chiamo? Un segnale, non ho Smitter, mi chiedono un controllo segnale radio, segnale non ho Smitter, radio non ho altoparlante. Capa, guarda già, sono con 87, sono buono. Sì, già si sente bene, è un po' la radio, un po' cupa, ma già va bene, è abbastanza accettabile, dai. Ehi, chiappa chiappa. Sì, guarda, se avessero venduto quell'antenna tua già veicolare avrei preso proprio quella e avrei messo quella nel cofano, piegata un po' ad arco, no? In modo da... perché quella è bella longa, mi la devi un po' curvare, tanto è inox, capito, torna dritto. Se no potrei avere anche il clone della mia. Il problema è che questa mia non la vendono senza base, la vendono solo col kit base magnetica. E poi mi tocca avere 10.000 basi magnetiche e non ne vale la pena, non ne vale il pene. Anche la mia la vendono così con la base magnetica, però vanno bene con le basi magnetiche, tengono bene. Sono piccole ma tengo. Ah, conoscendo? No. Ma... sono una decina di watt, com'è il segnale? Tanto qua è sempre lo stesso, l'overcretta sempre. Che segnale ti do? Siamo di basso. Ah, pensavo che avrebbe l'apparecchio che ne ha di più. Aggiustato là l'altro. Non mi ha fatto sapere niente Antonello. Cosa? Non mi ha fatto sapere nulla Antonello. Ma c'era lui? Ehi, io ce l'ho, perché è partito il finale, altra roba pure. E allora c'era qualche cosa attaccata, o c'erano le sette varie alte? Ma quando mai non ci puoi stazionare altro? E perché? Esente, sì, tu. A tutti può succedere, anche con l'antenna nuova ti può succedere, basta che ci sia qualche imperfezione. No, negativo. Non c'è. Avanti, va. KK. Va bene. Vabbè, con la da un metro sarebbe stata bella nel cofano, già andava bene, però ho paura che me la rubino quella. Che quella lì, quella Sirio finta bibanda, con la base Sirio, quella bella con quell'adesivo sotto, no? Con la pellicola, caspita, 70 euro il kit, no? Antenna più bassa, 70 euro. Quanto un'antenna da tetto? Però sto, a me piaceva quella, la volevo e me la son presa. Ce la voi, c'ho la Turbo 2001, mai piazzata, nuova, forse sentite che la vuole qualcuno. La sto lavorando perché tanto non è piaciuto più di quella che è troppo grande. L'ho comprata e poi non l'ho mai messa perché lo sai che mi avevo dimenticato lo stilo dove vado a fare la spesa appoggiato nel garage e poi l'aveva trovato il cugino di Salvio. Quando ho detto che ci aveva trovato questa antenna, io ho detto guarda che la mia, quella lì, me l'hanno, se l'ho ritornata e non l'ho più trovata, l'hanno presa, cosa se ne facevano? Io devo andare a mangiare, ce la risentiamo. Ciao, con la carica. E niente, qui ho già comprato un'altra antenna, ho avuto fretta di comprarla per non stare senza e invece poi l'ho ritrovata, me l'ha ritornata a Valigio, quindi Salviglio, non Valigio. Adesso sono da troppo tempo che non lo sento, non mi ricordo neanche il nome. La Turbo 2001 è impegnativa un po' come peso, poi è spessa, ti ho detto, è grosso lo stilo, la vedo più sui camion. Eppure lo sai che mi aveva sfiorato l'idea di prendere un'antenna di quelle dimensioni, però non la Turbo 2001, ma la Sirio, aspetta come si chiamava, 5000, Sirio 5000, com'era? Era il bestione massimo, però quell'antenna è inutile, cioè ha senso se la carichi di kilowatt, se la carichi di watt, ma se usi potenze normali, anche 100 watt, basta anche la mia, la tua, capito? Deve essere più sottile, più leggera, se no sono dei barasoni quelle, flettono meno anche, eccetera. Il bello è che hanno più larghezza di banda, ma giustamente come hai detto tu, cosa ti rivali di 200 canali di larghezza di banda? Tanto mi guarda, anche se si va sulla tripla 5 oppure fino a 27.6, 27.7, la copre benissimo quella banda lì. Quindi fai che siano 40, 60 canali utili, anche 70 vai di lusso con qualsiasi antenna. Sì, ma infatti. Però io ce l'avevo perché viaggiavo e ti dico la verità, quell'antenna mi ha dato delle grosse soddisfazioni, ma io ci avevo l'idea di 300 watt in macchina. Però arrivavo da Alghero, da produttore da Alghero, cosa che da casa molta gente non ce la fa ad arrivare ad Alghero da produttore. E arrivavo anche dalla macchina, capito? Poi come partivo dal parcheggio dove lavoravo ero Santiago 9, poi saliva sempre più 9.5, 9.10, sono arrivato anche 9.20 da recupero dei sossoli invidriati. E quello, il 203 sarebbe bello averlo fisso sotto il sedile. Hai visto che ai lati c'ha quelle scanalature per mettere la vite lì, imbullonarlo sotto il sedile, magari un altro, non quello che tieni a casa, no? E lasciarlo fisso lì. La volta che ti serve è già piazzato, quello poi non si vede, è sotto, capito? Mentre il baracchino è la prima cosa che rubano, se lo lascio piazzato, se lo dovessi lasciare piazzato qua, anche se metti lo straccio, sanno che c'è, se stai coprendo con uno straccio, sanno che c'è roba sotto, aprono tutto, rubano, e vabbè. Lo so, ma adesso non è toccato più nessuno, prima io rubavo le baracchini, come le radio chi te ne tocca più, la puoi lasciare, la radio in macchina è fissa oramai, le radio sono fisse, c'è il tablet, cosa ti ruba tutto il tablet. No, ma dico il baracchino, se lo dovessi lasciare in macchina, perché sai, conosce il tossico camion di soldi, di qualsiasi cifra, ruba qualsiasi cosa. Già si rubavano le piantine qua dalle palazzine, poi ti bussavano, me la dai una mano. E queste piantine, ho detto, chi è che le sta piangendo? Maledetti! Qua hanno rubato le piante grandi, non me la sai le piantine, qua c'erano delle piante enormi. Ci hanno rubato la piazza col vaso, sono venuti col furgone, l'hanno caricata e uno gli ha detto, scusa, dove stai andando? E no, mi hanno detto di cambiarle perché sono troppo grandi, queste adesso le stiamo cambiando e li portiamo le altre. Ehi, Carlo, beh, sei con Pomponi oppure l'hai lasciato? No, l'ho lasciato, adesso sono fermo a Piazza dei Segni. Mi sono fermato un attimo, c'è un casino, ci doveva essere la partita della torre, c'è polizia, vigili urbani, allora ho trovato un parcheggio e sono fermo lì. Adesso Gianni lo sento bene, prima sotto casa d'Antonello lo sentivo non basso di radio, capito? A te già ti sento sempre bene, Marco. Gianni, cosa mi racconti? Mi racconto che stavo provando un vecchio microfono su questo apparato, per quello mi sentivo in basso e sicuramente la batteria che scarica, non lo so. Cosa ti racconto? Le solite cose, Carlo, sempre la solita vita. Stamattina sono andato a vedere quel negozio nuovo, tutti i giorni, enorme, vedo Giovanni Pascoli. C'è di tutto e di più, dalle pizze, fainè, tutto fatto. Eia, bene Meda, sì, l'ho letto sul giornale qualche giorno fa che avrebbe aperto in via Pascoli. Sto usando l'antenna, quella uguale alla tua, Gianni, mi era arrivata, Oh, se Santiago 95 Radio 5. Va bene, Marco, bene, ti arrivo a te. Carlo, ma hai trovato che sto usando l'unico apparato senza smittere, però dici bene, bene, senza fruscio di fondo, quindi sicuramente sei oltre il 9. Va bene, quello Intec con diciamo l'audio frontale che dicevi prima. Ehi, a quello lì, dopotutto va sempre bene, stavo pensando di tenerlo in macchina nel cofano con un'antenna, in qualsiasi momento lo voglia piazzare, in 10 minuti attacco, accendo i sigari e piazzo l'antenna magnetica. Piccolo piccolo, poi lo butto dentro lo sportellino, non si vede niente, l'antenna la tolgo e non si vede niente, capito? Quando lo voglio piazzare faccio in un attimo, capito? L'MB40, Intec MB40, era bellina quella radio, Ah, il Mobicom MB40 o com'era? Mi sembra che sia quello che stai usando tu. No, allora questo si chiama M di Milano, M150 Plus, MFM multistandard, niente smitter, altoparlante frontale. Aspetta, Gianni ti stava chiedendo una cosa riguardo all'Alghero. Gianni, riformula. L'ho detto, se Carlo, si è testato quell'antenna andando all'Alghero. Sì, Gianni, l'ho testata e diciamo che non vorrei sbagliare, ma quella della Midland che usavo usciva un pochettino meglio, mi ha dato quell'impressione, o era la giornata, non lo so, la dovrò testare meglio, magari qualche sera che sto rientrando presto, che ci siete, proverò con voi, che più o meno sapevate come andavo con l'altra, capito? E vediamo come va. Ma a me va benissimo, sono arrivato stamattina, mi c'è Marco, testimone, stamattina dille come sono arrivato a Porto Torres, quanto mi ha dato Gavino di Porto Torres. Quant'era già? Aspetta che non ricordo, io ero 9:15, un po' alto come segnale mio, perché Gavino arrivò a 8:30, non solo Smitter com'è, e tu così eri 9:20 tipo? Da 9:20 a 9:25. Eia, probabilmente i miei Smith lo sono tarati secchi o comunque c'ho perdita di ricezione, magari per via il cavo, boh. Eia. Carlo, vedi di quel lineareto da 100 watt, quello lì, perché magari i watt sono pochi, non è questa degli antenna, lì sono i watt che hai pochi watt e quindi non esce per quello. È probabile, sì, sto uscendo liscio liscio adesso, capito, non ho i 5 della radio e basta, e l'ho provata così, se ho tempo qualche giorno, giorno, magari mi metto quello lì e così vediamo un po' come va. Dovrebbe andare meglio con qualche watt in più. E ti dà due segnali in più solo? E allora glielo ripiazzo. Lo ripiazzo in macchina perché comunque ho già l'impianto pronto, capito? Avevo ricavato un attacco di positivo e negativo dalla scatola portafusibili, capito? C'era uno spazio vuoto, quindi c'è un fusibile, ho messo praticamente lì uno spinotto e mi ricavo da lì la corrente, capito? E, c'è pure un pulsantino, quando voglio premere lo elimino, capito, oppure lo collego, è abbastanza semplice. Lo spazio ce l'ho anche perché questa radio è poco ingombrante, quindi non mi costa niente. Adesso la prossima volta che vado ad Alghero di pomeriggio rientrando la provo col lineare, capito, così vediamo un po' se va meglio. Certo che va meglio, perché i vatti sono pochi quelli che stai usando, è normale che non ti renda conto. Esatto, sì, nell'alba in effetti l'ho provato anche col lineare attaccato, capito, e niente, dai, prossima settimana sicuramente, perché adesso quando rientro martedì, ma faccio le mattine, per cui quando esco è ora di pranzo e non trovo nessuno alla radio, la prossima ancora, poi riprendo di pomeriggio e quindi magari è possibile che ci sia qualcuno in ascolto che mi possa dare un riscontro. Va bene, riprendi Marco. K, vediamo se nel frattempo è rientrato anche Antonello. Oh, Antonio Bombolo, che doveva mangiare. Ci siete? Nuda, sta mangiando ancora Antonio. Fa carica presto, caspita, alle 7, a mangiare alle 7, mi sembra una cosa, vabbè, io c'ho orari particolari, però sa, 8:30 di solito è la normale ora di cena. Tu sei abusivo a dire. No, quello è il problema, che magari prima mangia lui, però dal bambino, capito? Aspetta, che è entrato un altro abusivo, avanti l'altro abusivo. Abusivo sei tu, sei. Ciao Natta. Ciao già. Mi stanno cazzando la gente che mangia le 7, io ho finito adesso di mangiare. Ciao Natali. Ma tu avevi spiegato che dovevi mangiare prima e poi aspettare per fare l'iniezione, perché se no la fai troppo tardi, capito? C'era quella cosa lì, cioè avevi necessità di fare una terapia un po' distanziata dal pranzo, com'era? Sì, perché dopo 2 ore mi devo misurare la glicemia e ho un casotto. L'iniezione me la faccio prima ai coricardi. Ma infatti tu vai a letto presto, per quello è. Se no se mangi alle 8:30 devi aspettare 2 ore per fare la glicemia e quindi andare a letto più tardi, dai. Infatti per quello lo faccio. E intanto non mi va da nuda, perché tutta la notte senza dormire sono. Sì, dai, già ti rifai stanotte. Quindi è una bozza. Chissà da quanto tempo è che non sto dormendo più per i dolori. Ciao Natali, forza e coraggio. E la bambina è mio omaggio. Ciao Carlo, ciao. Ben sentiti tutti, dai. Così non sbaglio. 25 aprile, a parte il coso della liberazione, ma la cosa più importante è che è il mio onomastico, quindi preparati i portafogli, qua accetto tutto, contanti, assegni, travel check, PayPal, Western Union, tutto. Anche noi accettiamo l'invito al bar. Perché sei tu che devi pagarmi, se la pensetto io sei tu che devi offrire, hai capito? Devi mettere le mani in tasca, bello bello. Quello è brutto, quello è bello metterle in tasca per metterne i soldi, per togliene è preoccupante. Il peggio che siccome io non posso uscire, devi venire qua a portarmela la roba. La sua preferita. Non parli adesso? Via. Va bene, poi questo vedi, mamma mia, sti microfoni, ma le senti come sono plasticosi, cartonosi, senti mille rumori, basta che io muovo appena un muscolo, qua sono fatti di cosa sono fatti, di cartongesso, e l'altro almeno è più compatto, più robusto. Riprendi Carlo che vado a bere un po' d'acqua. E a me in Piazza Le Segni adesso la gente ha un po' diciamo è un po' andata via. Prima c'era un casino perché c'era la partita della Torres, quindi c'erano i vigili e polizia che stava scortando la squadra avversaria e stavano passando, diciamo, di tutto di più. Adesso, visto che è tutto tranquillo, non ho capito quale sia il risultato, però dal poco entusiasmo mi sa che ha perso la Torres, mi dà quell'impressione. Non ho avuto possibilità di guardare il cellulare a vedere il risultato, dopo lo controllo, dai. E niente, un'oretta fa lo stesso, attaccato a casa sul canale 27650 in banda laterale, c'era una chiamata nazionale per il 150° anniversario di Guglielmo Marconi, e stavo parlando con le Gran Canaria, c'era uno veneto, Mauro, e niente, chiacchieravo, gli arrivavo Santiago 8, Radio 5, e ci ho parlato per una ventina di minuti, poi ho chiuso perché lui doveva riprendere con altri collegamenti. Tutto qui, facendo quattro chiacchiere, poi sono rientrato, ho sentito Antonello, sono uscito e mi sa che la domenica è quasi bella che è andata. Sono contento che mi sto rimettendo a posto il garage, e ho buttato via un sacco di roba, ho fatto un sacco di spazio e mi ho lasciato solo un banco da lavoro. Se ho la possibilità mi porto giù il cavo e mi metto anche la radio lì giù, così quando scendo a fare qualcosa rimango in ascolto e qualche chiacchierata ci scappa anche dal garage. E infatti, ti metti un baracchietto così tanto per ascoltare. Scusate, sì, ve lo ricordavate che Gianni Natale, oggi era proprio il 150° anniversario della nascita di Marconi, e credo che abbiano fatto parlare in radio, non ho capito se radio amatoriale o radio diffusione, la principessa, come che si chiamava, Marconi, Cervelloni, Mazzanti, Vien dal Mare, no, aspetta che lo leggo, Maria Elettra Marconi, figlia... la figlia, non è la nipote, quanto è grande, vecchia è. Elettra è la bigliera. Ori è, caspita, una giornata, però propagazione poca, non è come gli altri giorni. Ma in banda laterale già vai, dai, con una trentina di watt, ho visto che sentivo bene tutta la Spagna, Canarie comprese, sentivano un sacco di comunicazioni, perché lui praticamente si intratteneva, questo Mauro, 10 minuti, un quarto d'ora con ognuno, si segnava il nominativo e poi faceva altri collegamenti, per cui anche io non è che mi sono trattenuto qui 15 minuti, 20 minuti circa, e poi ho girato, anche perché stavo facendo delle cose, quindi non mi potevo trattenere. Più tardi ci butto un po' l'ascolto e vediamo che collegamenti ci sono. Eia, sì, poi guarda, con l'aiutino è perfetto, cioè tu magari c'hai una ventina di watt o una trentina, però se pilotando bene l'aiutino diventano 100 e ti si apre un mondo. Vabbè, lo sai già, già hai già trattato l'articolo, dai. Esatto, è che per questione di praticità, diciamo, mi sto accontentando di quei 30 che mi dà la radio, capito? E la buona posizione dell'antenna, e per adesso va bene così, se no già ci impiego poco e a mettere tutto. Basta piazzarlo, non c'è problema. Sì, pochi minuti, l'avevo tolto perché con l'altra radio che usavo avevo paura, perché mi dava via un sacco di spurie, e questo me l'ha confermato anche Albino, perché l'ha provata lui e mi ha detto che come tipo di radio creava sempre quei problemi, e per quello che l'ho fatta fuori, avevo preso questa CRT 9009 e funziona benissimo, è più o meno, diciamo, alle stesse prestazioni, ma è una radio pulita, capito, non crea disturbi, non ha problemi di quella là, spurie che rompevano le balle e basta. Quella roba è in macchina, che la roba è scatola. ma l'ho data via, me la sono venduta, l'ho messa su eBay, l'ho venduta per 120, capito? E mai si veda. Albino me l'aveva messa a posto, non aveva grandi danni e c'era solo bruciato l'interruttore d'accensione, me l'ha sostituito, l'ha risaldato alla scheda e funzionava perfettamente. Ma quando mi ha detto che anche lui l'ha provata e come usciva con i watt, aveva un televisore acceso, una radio accesa, dice che entrava dappertutto, dice solo quella radio lo fa così, e quindi niente, l'ho data via, l'ho fatta fuori, adesso il CRT e questo piccolo president per la macchina, che è comodissimo perché è piccolino e quindi quando diciamo non lo uso lo metto nel cassettino e non si vede più niente. Sì, ma infatti, ma lo puoi anche mettere fisso dentro il cassettino come ho fatto io me li avevo fissati, non con le vicchie, li avevo messo il mio adesivo sotto la staffa e li avevo attaccati con il mio adesivo, non si sono più mossi. No, io qua ho il cassettino, quello aperto, esterno, no? E lì ho fissato la staffa con le viti sopra, ho fatto solo due forellini piccolini, capito? E regge bene, quindi quando lo tolgo dal cassettino lo fisso nella sua staffa ed è proprio vicino al vano dove c'è l'attacco accendisigari, quindi attacco tutto lì, ci sta microfono e tutto quanto. E poi quando finisco, che non lo uso, stacco, scollego, lascio solo la staffa sotto che non si vede nemmeno e lui se ne va dentro il cassettino, perché così ho anche la possibilità di abbassare, alzare il volume. Invece quando stai guidando nel cassettino ti va male perché è tutto dall'altra parte, capito? Vai un po' alla cieca, però diciamo che già ho trovato un buon compromesso qua con lo spazio che c'è. Non fare come a me che per alzare il volume del baracchino mi sono tirato una macchina, mi sono sbattuto dietro. Già ci sto attento, infatti quando modulo preferisco fermarmi, chiacchiero quell'oretta, mezz'ora, quanto ci posso stare, e poi è giusto quando non ne puoi fare a meno, ma cerco di stare attento, aumento prima il volume così non sto a regolare dopo e cerco di parlare senza il microfono vicino alla bocca, me lo metto vicino alle gambe così non ti vedono. E anche io sulla gamba, sulla cuscia me lo metto e mi sento lo stesso. Esatto, io faccio così e non ti vedono. Poco fa quando sono passato c'erano i vigili, no, che stavano stavo parlando e loro non si sono accorti. C'erano stamattina quadrato, ci doveva essere a Sella in Mosca. Eia, ho capito, adesso mi muovo e me ne rientro a casa, così mi parcheggio la macchina e nel caso ci sentiamo dopo. Ciao Natalino, ciao Marco, ci sentiamo dopo nel caso, dai, ciao Gianni, Antonello se ci sei o chiunque ci sia in ascolto, tutti salutati per adesso, mi sposto e a più tardi, alle prossimine, ciao a tutti, ciao Gianni, un saluto. Ciao Carlo, ciao. Ciao Carlo, ciao, buona serata, dai. A dopo se ci sei, dai. Io adesso devo portare giù il carro e vi saluto anche io. Vi auguro una buona serata e una buona continuazione a tutti, dai. Chi sta andando via? Carlo. Ecco, mi ero sentato un attimo. Ciao Carlo, buon proseguimento di serata, buon tutto e ci sentiamo. Avete capito perché c'era poca gente a Platamona? Perché c'era la partita alla Torres, molti si sono riversati lì e per fortuna Platamona trovavi subito parcheggio. Due volte, uno nel vialone e poi anche prima di andare via nella rotatoria lì per guardarsi il mare. E qualcuno che è venuto stamattina doveva essere per la partita, per la gente della partita. Perché c'è messo proprio davanti a me con tutto il posto che c'era, si è messo davanti alla macchina mia. Via. Dicevo, Carlo ha usato lo stesso sistema che avevo usato io, cioè nel cassettino aperto fai due forellini, fai passare le viti, io nel mio caso mettevo i galletti sopra in modo da sfilare, piazzare in fretta e togliere in fretta la radio, capito? Ecco, ma quando modulavi sentivo sempre i galletti che cantano, i galletti con l'espluga magari. E Natalino, vado via. Ah, sono qui. Dici qualcosa, Natalì. Cosa devo dire? solo che mi sono caduto, mi sono coricato poco fa, ma mi fa male ugualmente. Il blu sta cominciando a non fare più effetto. Occhi e gli occhi non lo so se fa effetto, capito? Non lo sai, gli occhi non è forte, gli occhi è più forte del buffet. Il buffo a me non mi va già lui dopo che ci ha la gamba, l'occhio un po' me lo faceva alleviare, non dico che mi passava del tutto, ma me l'alleviava. Sì, vabbè. Ormai l'ho già preso, non mi posso umiliare più. Cazzo, sennò no che. Ma virena sa cosa. Se prendi il gastroprotettore prima, sennò ti rovina lo stomaco. Io già lo prendo. Per le altre lo sto prendendo, figurati. E Giulia, già ne so che cosa io una casa di dolori, per carità. Sì, ma questa è atroce. È una cosa, guarda, non piango per la vergogna. Io gridavo solo, non era altro civile, quelli al femore mi sto dicendo, la gribavi lì. Sì, a chi vanno, a chi si va lì non viene la gribavi. Ma aspetta, sì. Ehi, purtroppo, vabbè, adesso si risolverà anche quello, là. Ogni AD viene una, ogni AD. E mi sa che qua non basta nemmeno l'asino della crucca, eh. Non bastano fare immagini bracciali, di tutti i colori me ne stanno succedendo. Sì, come dice Cosa, come dice Ivan, che quelle sono le maledizioni della gente. No, io non ci credo a queste menate, io dico che le cose succedono e basta, si invecchia, arriva un po' da una parte, un po' dall'altra, i malanni, bisogna grattarseli, convivere se ci si può convivere o risolverli se si possono risolvere. Ma adesso vediamo cosa dice la dottoressa domani. Sì. Ho detto, è un po' più seccante mettere il baracchino da me in macchina adesso, faccio molto più fatica. Perché? Si avvitta male, viene male mettere le viti. A me era successo col piede, te lo ricordi, non avvittava il baracchino. Il piede di questa antenna l'ho dovuto cambiare io, ho cambiato il piede perché quello che c'aveva non avvittava. Concreto. Messaggio. Pubblicitario. Io. Consigli per gli acquisti. Marco, lo stesso passaggio con l'energia l'ho fatto io. E l'ho fatto tutto tramite telefono. Mi hanno chiesto l'IBAN per avere la credito in banca. E adesso mi è arrivato sul telefono la bolletta con le codici a barre per pagarlo, per fare le cose, lo tabacchino. L'ho telefonato, io ne ho detto tutti i colori che avevano cominciato male, che io avevo chiesto la fattura cartacea e l'accredito in banca, e mi hanno fatto tutto il contrario. Ah, sei passato anche tu a un altro operatore e te l'hanno mandata tramite, hai detto, email o com'era? Tramite email, mi hanno mandato la fattura con l'importo da pagare, c'è il codice a barre che tu vai al tabacchino, te lo passano e paghi la fattura, capito? Sì, guarda, anche da me, noi siamo passati a Enel Energia e non sapevo questa cosa, io non me lo ricordavo nemmeno del cartaceo, non me lo ricordavo che potevi chiederlo. Fatto sta che è arrivata l'email, l'ho stampata, c'erano poi tutte le spiegazioni in dettaglio dei consumi, bla bla bla, e poi l'ultima parte è proprio tipo il bollettino di una volta. Spero che si possa pagare al tabacchino, io preferisco così già, non voglio che mettano mani al conto, a parte che non è mio il conto, sarebbe di mamma. E poi di quello di mamma non abbiamo applicazione, non vogliamo tutte queste menate elettroniche strane che poi ti fregano come niente, capito? Preferiamo andare al tabacchino, tanto guarda, in ogni bar che vai ormai c'hanno il CISAL e lo puoi pagare lì, capito? Vabbè. Adesso domani lo pagherò così, però ho detto se la prossima fattura mi arriverà di nuovo così, io non pago più niente e cambio operatore. E poi quando cambi, ricordati di cambiare, non sai mai cosa trovi, si cambia, lascia la via vecchia per la nuova, la piglia nel corseo, dovunque si trova. Non ho ragione, Natali, dico ragione. Scusa, non stavo seguendo. No, okay, questo cambiare operatore telefonico è sempre un'incognita, non sai se fanno, se saranno politicamente corretti, se ti imbrogliano. Insomma, non si sa mai cambiando operatore a cosa va incontro. Va. Allora, io ti dico una cosa, mi è arrivata la bolletta più alta di quella Enel, perché di quella Enel pagavo una cazzata, questa qui mi è arrivata più di 80 euro, quella Enel pagavo solo 50, così. E ha dato la colpa, dice che hanno messo 3 mesi di... che hanno messo 3 mesi di cosa, come si chiama? Ma... mesi di canone Rai, invece che mettere 2 ne hanno messo 3. Ehi, ma infatti, boh, poi questo canone Rai, ma scusa, che allora chi è interessato ai canali Rai, con le tecnologie di oggi, chi vuol vedere il pacchetto Rai, Rai Storia, Rai Menate, Rai quello che è, si paga il pacchetto come tutte le altre piattaforme, streaming. No, te lo devono imporre, io la Rai non la guardo mai, guarda al limite Rai Movie, sì, un film ogni tanto Rai Movie, sì. Sì, Gianni, confermo, motore Clio, della vecchia Clio. Capito, capito, Marco. Anda bene. Sì, sì, dai, già anda bene. Tanto te l'ho detto, l'altra, problemi e quindi problemi forse sanabili, ma abbiamo preferito così, dai. L'è morita l'altro. Eia, eia. Natalino già lo sa, mi era stato il primo a essere informato. Kappa, dai. Ma ora vi lascio che il cane sta... si ammugnando, mi sta guardando i coniglioni. Aiù, andiamo. Va bene, dai, ci sentiamo, statemi bene. Ciao, ciao. Ciao Gianni, ciao, buon proseguo e buona passeggiata. Grazie. Eia, ciao Gianni. Buona passeggiata col cagnone, almeno si prende un po' di fresco, di aria e tutto quanto, e poi passeggiare fa bene, cosa che dovrei fare più spesso anch'io. Ciao, ciao di nuovo. Ciao, ciao. Sì, oh, iaia. Conosco tutto. Non dice che c'era Antonello. C'era, sì, era entrato Antonello, poi Carlo è andato a prenderlo perché dovevano parlare. E Carlo è rientrato dalla macchina, però Antonello forse sta cucinando, roba del genere. Era entrato Antonio, stava mangiando qualcosa e così, dai. Adesso io magari mi organizzo per stanotte, che ora è 8:20, mi inventerò qualcosa per la cena e facciamo tutte cose. Io ho già mangiato, mi resta di farmi l'insulina prima di coricarmi, ci aspetto a misurarmi la glicemia e poi me ne vado a letto. Mi prendo un bel brufo anche di quello che mi porta a dormire, sanno che resteremo sempre. Ma Billy, su che arriviamo. Mimi, su su, e beh, Brigida. Ehi, Natali, buonasera a tutti comunque. Buonasera anche a lei. Io, ci prepariamo per una nottata notturna. Sì, anche sicuramente stai facendo altro, dai. Ehi, ascolta, ma lì tu sei vicino alla macchina, la macchina è di servizio o è la tua? Non ho capito, Marco, vi siete sovrammodulati con Natalino. No, volevo chiedere, tu quando sei lì sei vicino alla macchina e la macchina cos'è, di servizio o è la tua personale? Di servizio, la macchina mia è di servizio, io sto facendo tanto una metto, sto dentro la macchina, ogni tanto me ne scendo per fare il giro. E non ti puoi portare il baracchino? E magari, che ne so, se non è troppo tardi, qualcuno lo trovi, almeno passi il tempo. No, cosa baracchino? Già sono attrezzato, sì. C'ho le sciabole, macchina, pistole, che baracchino. Quindi se qualcuno tenta di forzare il controllo, cazzo, una sciabolata, una fusilata. Cazzo, non lo so così ricoveri. Mi passa che ti do quel fucile a pompa, che intanto io non lo sto usando. Cazzo, già lo fai bello con quello. Neanche col cucchiaino lo raccogli. Sì, però devi comprarti le camicie perché io ce le sto la palla. Invece se tu lo carichi a pallettoni è meglio, almeno anche se lo puoi sbagliare non lo sbagli. Tu mi sei tremendo a vero, dici. Ah, comunque la macchina è la mia, Marco, lì noi vediamo, entriamo, ci postiamo lì dove ci dobbiamo fermare, poi al 28 controlliamo dove c'è il materiale, basta, non è devi fare chissà cosa. 50 ettari devi controllare, ma qualcuno è parito. E magari l'ha chiamato la mamma. Cazzo, che bello è, oggi sono stanotte, poi smorto, domani mattina alle 6:30, arrivo se o no alle 7 a casa, bevo il caffè, mi sveglio e alle mezzogiorno mi devo tornare a rialzare, a lavorare, fino alle 10:30. Vedi tu, ragazzi. Dimmi tu, cazzo, Natalia. Dimmi tu cosa cazzo devo fare. È un orario sottone di merda, infatti ve l'ho detto. L'altro giorno è passato, ho detto guarda, a me i turni così non mi stanno bene, perché assolutamente. A parte che sono turni che non sono la norma, non si possono fare turni così. Devono passare oltre 8 ore. Cazzo, arrivo a casa, vergoco, cosa do? Murula, se do muro, a mezzogiorno e mezza luna, mangio, alle 2 si gioco gli esce, prima delle 2 ci sono già uscito. Ma che cazzo di turni sono, a me non mi stanno bene. E adesso vediamo come fare qui e là, va, vediamo quanti cazzo di vasi che caghetta. Sto parlando ora 50, ma noi scusa, che mi stava dicendo così. Tranquillo, va. Oh. Marcolino deve farsi la cena, dopo siamo tutti rovinati, se tutto va bene. Cazzo, sono sempre a due ore, mamma mia. Allora mi sono bucato, tac, lo durori, affanguarla, me ne sono alzato, ho mangiato a fare i miseri da righelli. E te l'ho bucato. Insomma, non si può usare così, no. Marcolino, non risponde, no. E sarà facendo cosa. Questa è tu che va a giocare, ne ho avuto tanta voglia per andare stasera, per carità. Perché sono turni un po' così fatti alla fine di 15 minuti. Tu non risposi a niente per dirti i due meno sì. Ma tu, sotto ti senti, attenta, di ti basta un altarino. Vai, finirà. A lui la tari, non mi grido, non si grido se la buffonendo. Ma cazzo con due fatti, ti fate vergogna Antonio, ti fate con due fatti. Cazzo io Antonio c'ho da parte, si può dire. È più aperto per te. E chi li sa quei tempi su, come. No, forse adesso perché ce l'ho sul tetto, l'antenna magari esco più bene. Non lo so. Sarà bravo. Sarà bravo, e cosa è più bravo di così? Qualcosa che puoi toccare. Entro. Più bravo di così. Potremmo approfittare con due fatte. Con due fatte gioca a vero. O ti lo posso vedere? Dipende poi com'è l'onda, dipende, perché sì, sono vicino sì, ma è spostato, capito? Tu c'ha la penna in terra, c'ha avuto la penna sul petto domani. Ma forse è più aperto per me, magari è per quello che ti passo, da voi a me ti passa la niente, non ha tutti nulla, a chi glielo sai in sasso che sarà tutti in curva, non ce n'è prima. Magari altri gli arrivi più forte, tu cosa vuoi che ti dici? Tu, cos'è? Montato hai? Aspetta. Che sei sbagliato? Aspetta a vedere. Adesso l'hai passato. cazzo, il cazzo già lo credo, se il cazzo devo attaccare non male che lo basi. Sì, ma se attacco l'altro non mi bastano. Non mi va di salire la frequenza, la cosa, la potenza, perché no? A me mi bastano i due vatte, cosa me ne appunto di... Non aggiungo a carico nessuno. E appunto, siamo tutti benzina, il cazzo deve attaccare neanche. Minimo, ho girato tutti i mazzi dall'apparecchio.